30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Non importa quanto possa essere organizzato, nessun sistema sanitario può sopportare indenne un afflusso straordinario di feriti di armi da guerra. L'allarme del dottor Khalid Shibib viene lanciato per conto dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, proprio mentre a Tripoli e nelle altre città della Libia le autorità del governo di transizione fanno i conti con l'emergenza umanitaria e sanitaria che segue 5 mesi di combattimenti. Buonasera, benvenuti da Gigi Donelli a 30 minuti in cronaca, che riparte anche quest'anno approfittando del fine settimana, cercando così insomma di prendersi qualche minuto in più per approfondire i temi della cronaca. 42 anni dopo il suo insediamento alla testa dello Stato libico, un insediamento che fu fatto con la forza, con un golpe militare, Gheddafi appare dunque sconfitto sul piano militare e su quello politico. La sua famiglia tratta, quando ormai tutte le trattative sembrano inutili, e intanto il mondo riconosce nel Consiglio Nazionale di Transizione l'interlocutore politico. Dalla Francia, che lo ha fatto per prima, in primavera, alla Russia, che lo ha fatto tra gli ultimi questa settimana, la comunità internazionale riconosce dunque nel CNT il legittimo governo post-Gheddafi, scongela le risorse economiche e soprattutto si mette nelle condizioni, e mette nelle condizioni anzi nuovi capi del paese, di trattare legittimamente il bene più prezioso, che è il petrolio. Intanto, per completare un po' il quadro della situazione, proprio ieri il Consiglio Nazionale di Transizione ha annunciato che intende formare un'assemblea costituente nel giro di 8 mesi e tenere elezioni presidenziali nel giro di 20 mesi. Questa la situazione, diciamo, generale, ma in realtà c'è un'altra storia, un'altra cronaca, che è quella di una situazione estremamente complessa sul fronte sanitario e umanitario. Ci sono sacche di resistenza, naturalmente la caccia ai vertici del regime continua, le distruzioni delle infrastrutture, la fuga del personale medico e paramedico che ha seguito l'avvio di fatto dei bombardamenti della NATO. Una situazione complessa di cui questa sera parliamo con un medico che ha svolto e svolge un lavoro di rete molto importante per la Libia. Si tratta del dottor Fouad Aodi, che avremo con noi tra qualche momento. Prima però voglio farvi sentire un'intervista che abbiamo realizzato con il commissario europeo all'emergenza umanitaria, Kristalina Georgieva. Commissario Georgieva, quali sono le priorità di intervento dell'Unione Europea in Libia? Ci sono 4 priorità di intervento che riguardano Tripoli e le principali città costiere della Libia. Primo, accesso all'acqua potabile per la capitale e altre città costiere. Secondo, riabilitare il servizio sanitario. La maggior parte degli ospedali sono aperti, ma alcuni soffrono di carenza di medicine e c'è una grave carenza di personale infermieristico. Terzo, va assicurata la protezione di tutti i civili, che comprende anche quella di oltre 3.000 africani del sud che sono bloccati a Tripoli e temono per la loro vita. Quarto, la diffusione di munizioni come conseguenza della dissoluzione dell'esercito realista e l'abbandono delle caserme. Uno dei membri del mio staff mi ha detto di aver visto per le strade della capitale dei bambini giocare con delle granate perfettamente funzionanti. Siamo estremamente vigilanti e consapevoli che il rischio che riesplodano dei fronti di battaglia non è ancora scongiurato. Il Consiglio Nazionale Transitorio Libico, il CNT, controlla ormai la situazione. Mi dica, commissario, avete piena fiducia nella sua azione? Il Consiglio Nazionale Transitorio Libico si è meritato la fiducia della comunità internazionale intervenendo in maniera responsabile nelle situazioni più critiche. E questo nonostante il fatto che la società libica abbia subito 42 anni di controllo da parte di Gheddafi e della sua famiglia. Il Consiglio è stato capace di raccogliere una rappresentanza reale della società civile civile del paese e questo naturalmente implica una certa complessità del processo decisionale. Il risultato del loro lavoro, d'altra parte, è reso chiaro non solo dai riconoscimenti politici, ma anche dalle decisioni con cui in queste ore oltre 1,5 miliardi di dollari di beni dello Stato sono stati messi a disposizione del CNT perché potesse intervenire con i mezzi propri nell'affrontare la crisi umanitaria interna. Le nazioni europee perseguono individualmente i propri interessi economici e oggi tutti si muovono per assicurarsi una fetta del grande mercato libico del petrolio. In che modo questo condiziona l'azione del commissario per la cooperazione e l'azione umanitaria? We in Europe actually take pride of protecting the neutrality. Noi siamo orgogliosi degli sforzi fatti per mantenere la neutralità dei nostri interventi umanitari che riguardano l'intera popolazione interessata. Di certo, l'aiuto è un contributo alla stabilità e questo ha delle implicazioni politiche, ma il nostro sforzo e il mio personale convincimento è che se tuteliamo la neutralità della nostra azione, riduciamo il rischio di vendette e rappresaglie interne e favoriamo gli interessi di tutti. Noi proteggiamo un contesto di umanità, anche nelle situazioni peggiori. E poiché l'azione umanitaria targata Europa nel mondo è molto vasta, sappiamo che, tutelando il carattere di neutralità del nostro intervento, rendiamo servizio anche alle migliaia di operatori europei che svolgono una professione estremamente pericolosa. Sono in pochi a rendersi conto che ogni anno nel mondo vengono uccisi più operatori umanitari che peacekeepers. More humanitarians are killed every year than UN peacekeepers. L'intervento umanitario costa. La crisi economica può mettere in discussione l'iniziativa dell'Europa su questo fronte? Quello che ho imparato in questi anni di lavoro che mi hanno portato attraverso il mondo nei luoghi investiti da calamità naturali o dalla tragedia della guerra è che la solidarietà è forte, convinta e riesce sempre a mobilitare l'opinione pubblica europea in maniera compatta. Ci possono essere dubbi e preoccupazioni sull'azione delle istituzioni europee, ma quando si tratta di interventi umanitari, registriamo allora che il 93% dei cittadini dell'Unione Europea ci chiede di intervenire e di farlo insieme. Quando si tratta di azione umanitaria, l'Europa si muove compatta e credo che in futuro questo sarà per tutti noi un grande vantaggio. Eccoci qua dunque, Kristalina Georgieva, lo ricordo, commissario europeo all'emergenza umanitaria, e il nostro ospite Fuad Aoudi, presidente dell'AMSI, che è l'associazione medici di origine straniere, rappresentante in Italia della comunità del mondo arabo. Lei si è dato, devo dire, un grande affare anche per comunicare attraverso i media italiani, la situazione libica. Le voglio chiedere innanzitutto perché è stato così importante svolgere dall'Italia un lavoro di rete ed è importante ancora farlo con le infrastrutture sanitarie libiche oggi, dottore? E questo è dovuto al fatto che abbiamo anche una rete di medici e amici sia dell'AMSI sia della COMAI in Italia, in Europa, anche a Tripoli, a Misurata e nelle varie città libiche. E era importante e importante comunicare tra di loro anche visto le difficoltà di comunicare tra di loro in Libia, visto le difficoltà enorme di comunicazione, di trasporto, e questo ha dato un contributo non indifferente a vedere la situazione nelle varie ospedali che noi informavamo, e direi che è stata veramente una rete di comunicazione importante anche in Italia, grazie a giornali, televisione, agenzie di stampa, che ha dato un contributo non indifferente. Ecco, dottore, mi sta dicendo che in sostanza per far comunicare Tripoli e Bengasi, per fare un esempio, era necessario fare un triangolo, passare per l'Italia, passare per la vostra attività? Ma questo è stato il nostro lavoro è stato molto importante a Tripoli anche come comunicazione, perché a Bengasi, a Mesurata, anche lì a Mesurata c'era un problema perché, come lei sa, è stata una catena di fasi di liberazione delle città. Certo. Mesurata è stata la prima città che veramente abbiamo visto un'emergenza che è diversa da quella che sta vivendo Tripoli, perché se sono stati, adesso ci arriviamo, sono stati colpiti l'ospedale, mancavano quasi tutto di medicinali, di medici, e poi iniziarono i primi medici a lasciare il servizio sanitario libico, sia i libici per andare a combattere, sia operatori sanitari di origine straniera che volevano tornare nei loro paesi e allontanarsi dalle zone di guerra. Dunque, un ruolo di comunicazione che, se ho ben capito, non solo, io ho citato un esempio di due città distanti, ma si è svolto e sviluppato anche all'interno della stessa capitale libica, nelle fasi più cruente. Ma allora le chiedo, oggi qual è a suo avviso la situazione? Quali sono le priorità? Prima l'abbiamo chiesto al commissario Georgieva, dal punto di vista dell'organizzazione dei medici, quali sono gli elementi più critici da affrontare? Noi stiamo aggiornando quasi giornalmente la situazione, sentendo i nostri medici con telefonate la mattina e poi il pomeriggio. Per quanto riguarda l'emergenza, se mi consente di fare prima un passo indietro, che quando da due settimane noi lanciamo l'appello che c'è un'emergenza sanitaria e umanitaria in atto, purtroppo è stata sottovalutato questo appello, e tre settimane fa mancavano sia medici sia infermieri, in particolar modo i medici specialisti in anestesia e in ortopedia, perché ci sono tante fratture, ci sono tanti feriti con traumi, e mancano chirurghi plastici, ci sono tanti feriti con traumi facciali, con feriti facciali non indifferenti, mancano ginecologi, perché ci sono tante donne che dichiarano e raccontano nelle ultime giorni di violenze e violenze sessuali, mancano parecchie psichiatre anche per problemi di sindrome ansiose, depressive, in particolar modo in età pediatrica, per i bambini che sono tutti impauriti. Tutto questo ha dato conseguenze purtroppo non indifferenti a loro, e specialmente i più deboli, i bambini e le donne. E come esigenze oggi mancano, è quello che noi abbiamo lanciato come richiesta ieri e tramite le agenzie anche alla conferenza internazionale a Parigi, di istituire immediatamente 3 a 4 ospedali da campo a Tripoli. Perché questo? Perché c'è una difficoltà di trasporto non indifferente, per mancanza di benzina, per mancanza di elettricità, per mancanza anche di acqua. E con ospedali da campo risolviamo queste 4 problematiche, che i pazienti arrivano più facilmente, arrivano direttamente per le cure immediate. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli. Questa sera parliamo dunque con il dottor Fouad Aodi, che lo ricordo è presidente dell'AMSI, l'Associazione Medici di Origine Straniera, rappresentante in Italia della comunità del mondo arabo, che si occupa, se non sbaglio, di ortopedia, che è un medico che opera a Roma, ma che in queste settimane ha svolto e svolge un ruolo di centrale di informazione, di scambio, di comunicazione, e che ora, come avete sentito, avanza, diciamo, a nome degli interessi libici, ma di quelli umanitari evidentemente, delle richieste. Ci diceva, dottore, che la priorità riguarda 3-4 ospedali da campo a Tripoli. Perché questa urgenza? Questo, anche se mi consente, in accordo, ho sentito l'ambasciatore libico in Italia l'altro giorno, anche lui concorda con questa nostra richiesta, perché a lui arrivano le stesse più o meno, certo, informazioni riguardo a questa esigenza, perché risolviamo il problema dei trasporti, che è in grande difficoltà per mancanza di benzina, e poi i pazienti arrivano direttamente a Tripoli. C'è stata una svolta molto positiva con l'arresto del direttore del centro medico di Tripoli, che comandava con autorità e con violenza e selezionava addirittura i pazienti, e quando è stato arrestato dai ribelli iniziarono più o meno a riprendere i lavori e le attività. Oltre la mancanza enorme degli infermieri, perché la maggior parte degli infermieri che lavoravano a Tripoli lavoravano nelle varie ospedali delle altre città libiche, erano di origine straniera, e mancano veramente parecchi infermieri. Mancano questo problema di risolvere tanti interventi chirurgici, ortopedici che sono in attesa di intervenire. Per questo noi, dopo che abbiamo lanciato il nostro appello, che ringrazio tutti quelli che hanno aderito e ha dimostrato che veramente l'Italia è molto vicina al popolo libico, io parlo a livello di popolazioni, oltre quello governativo che ha la sua strada, tantissimi specialisti che ci hanno chiamato, e già abbiamo inviato più di 36 medici nostri che sono partiti dall'Italia, dalle varie città europee, perché l'AMSI è l'unica associazione in Europa che comprende tutti i medici operatori sanitari di origine straniera di tutti i paesi. Per questo oggi anche una delegazione nostra parte dalla Tunisia verso il centro medico di Tripoli, specialisti in chirurgia vascolare, perché ci sono parecchie problematiche nella branca di angiologia, chirurgia vascolare, che presso l'unico centro di chirurgia vascolare ci sono tanti pazienti a operarsi. Ecco, insomma, mi sembra di capire che anche dalle sue parole che c'è una chiara, forte reazione di sostegno da parte dei singoli medici, delle organizzazioni, in una fase che è ancora critica, perché insomma, non dimentichiamolo, siamo già abbastanza proiettati sul futuro, ma i problemi sono del presente, e poi ovviamente a cominciare dai leader supremi, non tutti i capitoli sono chiusi. Le vorrei chiedere però una cosa, dottore, il sistema sanitario libico, la Libia in generale è un paese, proprio in queste ore vediamo una serie di agenzie, di dati impressionanti sui capitali che vengono liberati e rimessi a disposizione del nuovo governo, di fatto per quanto transitorio, miliardi di dollari, di euro. La Libia è un paese che ha delle fortissime capacità economico-finanziarie, una popolazione relativamente ridotta, ma in passato si è costruito un sistema sanitario estremamente diseguale, un sistema in cui pochi avevano trattamenti di qualità e molti magari la prebenda di un viaggio sanitario all'estero. Le torna questo quadro? Sì, per esempio prendiamo l'esperienza dei libici in Italia. Tanti anni fa, o fino a qualche anno fa, arrivavano tanti pazienti dalla Libia direttamente. Questo è uno dei servizi che, dei pochi servizi che consentiva Gheddafi ai libici, che di venire in Italia a fare le cure, visto la vicinanza, visto anche l'ottimo servizio sanitario italiano, e facevano le cure e con le ricevute dichiarate loro prendevano i rimborsi spesa. E questo è un modo per calmare la popolazione, offrire qualche servizio, così qualche goccia nel mare, per dire: vedi che vi offriamo questo, oltre far studiare i loro figli con borse di studio che tante università italiane e europee ha fatto laureare parecchi medici, in particolar modo l'Inghilterra, dove c'è il numero più alto dei medici. Invece in Libia purtroppo non tutti potevano accedere ai servizi sanitari, visto che abbiamo citato il direttore di questo centro che selezionava. E purtroppo stanno scoprendo oggi, noi lo sapevamo, ci sono due livelli molto distanti di tenore di vita. Uno alto, chiaro, quello che ci ha descritto, quello di fatto che va all'estero, e l'altro quello che rimane ingabbiato. Dottore, lei cita ancora una volta il direttore di questo centro che è stato arrestato. Mi ricorda quanto la sanità sia sempre uno strumento di politica. Mi ha fatto venire in mente il terribile ospedale di Vukovar in Slavonia negli anni 90, un luogo dove l'ospedale diventa di fatto un lager, sia perché le cure vengono di fatto assicurate solo una parte della popolazione, se non addirittura un vero e proprio campo di prigionia. Ecco, nel sistema sanitario, nell'aria che respira attraverso tutti i suoi contatti in Libia, non avverte il pericolo che di fatto a una repressione se ne possa sostituire un'altra? E questo purtroppo può succedere di tutto. Una cosa certa, con la primavera araba che iniziò in Tunisia, che noi seguiamo proprio dal primo giorno, poi l'Egitto, la primavera araba proprio dei giovani, c'è in atto anche adesso la primavera dei medici, dei operatori sanitari, della gente che vuole ricostruire. Noi dobbiamo fare un impegno importante, questo l'appello anche alla diplomazia internazionale, non lasciare i nostri giovani da soli, non lasciare i nostri movimenti spontanei, senza ideologie religiose, senza ideologie politiche, lasciarle da sole per essere cavalcate da qualche politico di turno o qualche ex amico di dittatore di turno o qualche partito politico di turno per cavalcare questa onda. Detto questo, vedo e sono contento per la Libia, per esempio, tantissimi medici libici in questi tre giorni stanno tornando proprio ai loro posti di lavoro, stanno tutti impegnandosi finché la Libia possa riprendere quella via che merita come paese democratico, come paese libero, ma non solo la Libia, tutti i paesi, perché ci sono tante forme di dittature. Purtroppo queste dittature, queste repressioni anche si vedono tramite i servizi che offrono ai civili, lo vediamo tramite la scuola, lo vediamo tramite il diritto della salute, il diritto alla scuola, il diritto all'università. Per quello io il mio augurio, il mio auspicio, con tutto l'impegno che stiamo dando e lo stiamo facendo con tutto il cuore per dare un contributi come italiani di origine araba ai nostri paesi di origine, ma contemporaneamente anche all'Italia, per dire che l'Italia c'è, l'Italia merita un posto di primo piano, l'Italia merita un posto di primo piano come è nel aiutare nelle emergenze sanitarie, nelle emergenze umanitarie, e poi verranno dopo accordi economici. Non focalizziamo solo adesso di parlare di petrolio, tanto di per petrolio, perché purtroppo può diminuire tutto quello che ha fatto anche per gli aiuti umanitari e sanitari, come è successo nel lontano 82. Dottore, io penso che le sue parole siano da sottoscrivere completamente. Tra l'altro, quando parla di diritti, di accesso alla sanità, all'istruzione, ci rendiamo conto quanto le due sponde del Mediterraneo siano molto più vicine di quanto a volte qualcuno non pensi, perché questi diritti riguardano appunto i paesi della primavera araba, che magari in qualche modo li scoprono, riguardano noi che non sempre siamo consapevoli di tanta ricchezza. Fuad Aodi, lo ricordo, è il presidente dell'AMSI, l'associazione dei medici di origine straniera, rappresentante in Italia della comunità del mondo arabo. Io lo ringrazio di essere stato con noi, continueremo a sentirci, continueremo a seguire il vostro lavoro di rete, lavoro che, come abbiamo sentito, è sanitario senz'altro, ma è anche politico nel senso migliore del termine, perché se questa primavera porterà davvero dei frutti, e anche grazie ai medici, agli ingegneri che ci sono venuti a trovare in studio, anche giovani medici, ingegneri, persone appassionate che credono nel fatto di poter migliorare attraverso il proprio lavoro, quindi attraverso la propria esperienza, la qualità della vita nel bacino del Mediterraneo. Grazie dottore. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Bene, siamo in conclusione, mi resta da ringraziare solo Peter Bescapè in studio. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, per la prossima settimana. Buon fine settimana.